Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Carissimo. Carissimo Maurizio, ciao Maurizio. Buonasera, ci rivediamo, ci risentiamo come ieri sera. Stagger Man, buonasera Stagger Man. Avete buonasera, fatto un viaggio buonasera. Da Bergamo, da quel di Bergamo? O sì, sì, abbiamo fatto abbastanza. Sì, sul lago di Iseo. Sul lago di Iseo. A metà strada tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia. Avete fatto un viaggio buono, senza problemi? Ma sì, pensavo fosse più vicino a Padova, però. leggermente distante. Leggermente. Siate in testa, sia poi. Vedo una bellissima chitarra. Fammi vedere che chitarra che sai. Bellissima. Piace. Bellissima. Bella che visivamente era, cari ascoltatori, proprio bella visivamente. Ma fondamentalmente l'ho presa perché era bella esteticamente. No? Io sono rocchettaro convinto che mi piace due volte. Vuoi presentare i componenti della band? Certamente. Al basso abbiamo qui Salvatore Lentini, alla batteria Lorenzo Colosio, che sono due dei tre musicisti che mi accompagnano abitualmente sia per la maggior parte delle incisioni dell'ultimo disco che dal vivo da qualche anno a questa parte. Manca Guglielmo Scarsi, che è il tastierista, che non è potuto venire. Ma ci sentirà via internet. Ci sentirà via internet, esattamente. Penso, sì. E poi presentati. Ah, e io sono Matteo, The Staggerman, anche per gli amici per intimi, gli amici. Anche non. Anche noi. Ecco il nome del gruppo, allora. Sì. È venuto fuori da quello. Musicalmente, come è nato, come si è sviluppata il progetto Staggerman? Questo è il secondo album, non questo è il secondo album, sì. Inizialmente si è sviluppato partendo da... Che idea? L'idea era che era un po' che non suonavo più. Facevo... Sì, suonicchiavo in una band di un amico che si chiamavano, non si è ancora capito, The Union Frigo. Però suonavamo poco, allora da perché quel... suonavate poco per motivi diversi? Ma perché si suonava poco allora come adesso, anzi adesso forse ancora peggio. E giro, no, avevo anche preso un po' le distanze da vari gruppi in cui suonavo, perché era un periodo in cui mi ero sinceramente un po' stufato dell'atteggiamento dei musicisti. Bello, da musicista bella, che è tutto molto bello. Ma probabilmente gli altri possono dire la stessa cosa di me. Adesso la spieghi leggermente. No, non la voglio spiegare. Andiamo a parte. Okay. E niente, lì ho detto, vabbè, cominciamo, vediamo, butto giù qualche riga, vediamo cosa mi esce. E da lì ho cominciato a scrivere qualche canzone. Prima qualche abbozzo, qualche canzone assolutamente terribile, inascoltabile. Finché poi un giorno mi è venuta la prima canzone del primo album, sì, che io ho fatto sentire al mio amico Ronnie Amighetti, non so che è cantante degli Union Frigo di qui sopra. Mm-hmm. Lui allora era proprietario di uno studio e mi ha detto, ma se ne ha altre, buttiamole giù qua, tempo perso, cominciamo a fare qualcosa. E quello è stato l'inizio dell'avventura Staggerman, sì. È una bella abbiamo messo, infatti, a fare il primo disco ci abbiamo messo circa un paio d'anni, ma perché ce la prendevamo molto con calma. Lui magari aveva lo studio libero, mi chiamava la sera, stasera sono libero, tu sei libero, sì ci troviamo, lavoriamo. Ce l'ha sempre preso molto con comodo, anche perché poi non essendo sicuro dei miei mezzi come cantautore, ci sono andato inizialmente molto cauto. È un cantautore allargato questo qua, perché questa è una band, tu sei un cantautore, sì, però l'inizio era un cantautore, l'input è partito dal cantautorato, anche certo, se il primo album è molto cantautorale a mio parere, sì. Cosa dici? Sì, a mio avviso di più il secondo. Però secondo me è bello per quello, perché insomma io la penso così, tu la pensi così. Sempre la pensiamo bene tutti e due. Sì, sì. Bene, questo è il primo album. Come si chiamava il titolo del primo album? Tiny Tiny Tiny. Esattamente. Appunto perché tiny significa piccolo, perché piccole erano le pretese che io avevo come appunto cantautore o come appunto cantautore alle prime armi, e quindi non volevo, insomma, volevi allargarti di farla fuori dal vaso. Beh, esatto. Allora ho detto, ma io ho fatto questo disco, se piace bene, se non piace non credo che farò il prossimo. È piaciuto però quello dopo, poi arriva il disco dopo, invece è arrivato il disco, dopo è il disco importante. Era importante anche il primo perché hai rotto il ghiaccio. Certo, sì, sì, sì. Però disco secondo disco. Si dice che il terzo disco è il disco della maturità. Aspettiamo. Però aspettiamo il terzo disco. Cosa dici, Gil? Siamo curiosi, noi aspettiamo. Siamo curiosi, adesso facciamo una cosa molto semplice. Apriamo la finestra. E come si fa ad aprire la finestra? Si fa sentire al pubblico, ai nostri ascoltatori affezionati, e non solo quelli affezionati, a tutti gli ascoltatori, la traccia che hai scelto per aprire l'album. Per aprire l'album? Sì, l'album, cioè per aprire l'ascolto dell'album. L'ascolto dell'album ho deciso di... sarebbe poi la seconda del disco, che si chiama Not the Man I Used to Be. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, prima ascoltiamo la seconda del disco nuovo. Okay. Esattamente. On the radio while I'm cleaning up my home. I try to keep myself occupied. Someone left a message on the phone. Hello, it's me, the baddest coach. Maybe I go out for a walk. Maybe I'll have a drink or two. But the bed is still laying down. Some cobwebs hanging on the walls. There are so many things to do. Eccoci qui in ritorno a Blu Radio Veneto 88 e 700 MHz. Siete in compagnia di Gilles e Maurizio con i Staggerman. E vi ricordo che se volete interagire con questo gruppo vi collegate nella pagina Facebook di Blu Radio Veneto, al Blu Radio Veneto Rockway, e ci mandate un messaggio che noi vi leggeremo poi in diretta. Se volete ascoltare in streaming invece dovete collegarvi sul sito di Blu Radio Veneto. Sulla sinistra trovate un simbolino rosso, una cuffietta rossa, cliccateci sopra e lì ci potrete ascoltare in tutto il mondo. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. Io, parlando col nostro chitarrista, che ammiro sempre di più grazie alla chitarra, ma dopo fra qualche secondo sentiremo proprio la chitarra, e parlavi un bel muro di chitarra, ma anche dei bei fiati. Tanta gente ha partecipato al disco. Sì, soprattutto, puta caso, siamo partiti con la canzone che vede più ospitate in assoluto. Perché i fiati? Perché ci stavano canzone, bene. A volte capita che uno... A volte capita che uno abbia proprio così l'illuminazione. E si incaponisca proprio finché la canzone non esce come vuole lui. E questa canzone io l'ho scritta sentendoci già i fiati. Ho voluto i fiati, e finché non li ho voluti non sono stato contento. E questo finale tastieristico, quasi rhythm and blues, anche quello che è collegato ai fiati, allora. Certo, sì, anche perché l'arrangiamento di fiati l'ha fatto appunto il tastierista, che è Guglielmo, il nostro che adesso ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando e ha fatto lui l'arrangiamento di fiati. Io, insomma, non sapendo leggere né scrivere, gli cantavo più o meno quello che volevo facessero i fiati, e lui ha scritto le parti. Questo gusto anni 60, fine anni 60, la tastiera dà proprio l'immagine secca del pezzo. Non è anni 60, però l'idea... No, ma infatti poi con l'inserimento dei fiati all'interno di questo brano ho voluto che... Cioè, volevo dare questa venatura, diciamo, adesso non voglio esagerare, però vagamente soul. Vagamente rhythm and blues soul, dai. E proprio è quello che... Infatti è uno dei brani che preferisco. È anche dei brani trascinanti. Sì. Vi trascina sicuramente. Sì, sì. Chiaramente è fatto in elettrico. Qua stasera... Siamo in fase pseudoacustica, non propriamente acustica, c'è un bel basso, c'è una chitarra elettrificata, c'è una batteria corposa e c'è anche un basso, quindi non è proprio acustico. E però dal vivo questo pezzo sarà molto potente. Ma sì, diciamo che dal vivo soffro un po' della mancanza dei fiati, per quanto mi riguarda. Però vengono sostituiti come i fiati dal vivo? Non vengono sostituiti. Non vengono sostituiti. Beh, non mica si può avere tutto. Infatti, sì, siamo stati fortunati che abbiamo avuto anche i fiati. Perché è già difficile andare a suonare in quattro se dovessimo andare in giro a suonare in sette. Questo abbiamo un problema. Adesso tocchiamo un problema che è pesante. Non si riesce più a suonare. Giustamente mi diceva Matteo. Tante belle critiche, positivissime, tantissime, ma i concerti dal vivo ce ne sono pochi. Concerti pochi, ma sarà sta crisi. Sarà sta crisi. La chiamano crisi. Ma per tutti, mica solo per voi. No, infatti, sì. È una cosa indubbiamente assolutamente normale. Per purtroppo è così. Lo so, ci vorrebbe, perché una band ha necessità di suonare dal vivo, c'è poco da fare. È fatta apposta. Belle critiche, positive, tanti giornali hanno scritto bene, sia del primo sia del secondo disco, però un bel palcoscenico vi manca. Sì, diciamo che ogni tanto riusciamo a calcare qualche palco importante, o piuttosto importante, insomma, poco tempo fa abbiamo fatto... apertura al concerto di Willie Nile ad Alzano. Hai detto niente. È stata una serata... Che è stato anche qua Willie Nile qualche tempo fa. Sì, è stata a parte una serata bellissima, lui gentilissimo, squisito, proprio... Musicista veramente bravissimo. Sì, sì. Ma per quello che l'abbiamo conosciuto noi, assolutamente proprio squisito e gentilissimo, e tutto quello che c'è di positivo che si possa dire. Quindi avete aperto per Willie Nile. Abbiamo aperto per Willie Nile, tant'è poi lui alla fine del suo concerto ci ha voluto sul palco con lui per fare una cover insieme, eccetera. E, però da lì, insomma, poi... Non è scoppiata la... Basta. Niente. No, grandi vendite di dischi per noi, però poi basta, le cose sembrano arenarsi lì un po', dove come nascono muoiono anche, insomma, non si riesce mai a dare un seguito a quello che stai facendo. Sono tutti piccoli spot. Certo. Arenarsi sì, non qua dentro, perché adesso suoniamo che cosa? Adesso suoniamo un brano tratto dall'ultimo disco che si chiama Morning Walk. perfetto. Adesso mettiamo live. Ci mettiamo a posto, ovvero Gilles. Le band chiaramente si deve sistemare, batterista, basso e chitarra. E tutto dal vivo sono le 22:26 e 30 secondi circa, quindi assolutamente live a Rock Wave. Ci siamo quasi? Sei pronto, Matteo? Sì, ci siamo, spero bene. Che si senta piuttosto bene. Sì, io penso assolutamente di sì. Prima il suono era perfetto, allora sarà senz'altro anche adesso. Quando siete pronti, ragazzi? Siamo prontissimi. Vai. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qui nuovamente in diretta, Blu Radio Veneto 88700 MHz in modulazione di frequenza. Gilles Agostino, Gilles Maurizio. Agostino è sempre presente. Agostino, sì, non c'è niente a fare. È sempre qui con noi. Esattamente. Diciamo, bisogna fare i complimenti anche ad Alberto. Sì, Maurizio. Esattamente, il nostro direttore artistico. Alberto, è proprio stato lui che vi ha voluto qua stasera. Lo salutiamo, Alberto Prisco. Grazie, non è Alberto. Presente stasera, ma vi sente sicuramente da casa. Parliamo di questo pezzo. nel pezzo originale del disco c'è una piccola, era tinteggiato di piano, quel piano non c'è, per... quel piano non c'è, e non c'è, però abbiamo sostituito a ascoltare la trasmissione, esattamente, l'abbiamo sostituito prima. Degnamente è una ballad questa, che posso è dire. Assolutamente una ballad, sì sì, inventata da te in qualche momento, inventata da me in qualche momento. È che qui cerco, non vorrei scadere nel come si dice, nel luogo comune, cioè, dimmi. Ma questa è veramente una canzone che ho scritto. Allora, io fino a un anno fa abitavo in un bellissimo paese che si chiama Castro, sul lago d'Iseo, sì, in riva al lago proprio. Quindi visione splendida. E era una notte d'estate, io non riuscivo a dormire e la mattina verso le 5:30 sono uscito di casa e ho cominciato a passeggiare per il paese, a fare avanti e indietro sul lungolago di questo piccolo paese. E tornato a casa mi sono limitato a descrivere quello che ho visto durante questa passeggiata. Ora sembra che detta così una cosa che uno dice... Una passeggiata, ma tutti... L'hanno fatta tutti, l'hanno scritta tutti, chiunque direbbe... Sì, potrebbe dire morning walk. Effettivamente non è una cosa così originale, però ecco, insomma... È nata così. È originale. Ed era un po' di tempo che mi girava la melodia in testa e anche la musica ce l'avevo già. Mi mancava il testo, non riuscivo a metterci niente. Ma l'hai fatto sentire i tuoi colleghi dopo il canovaccio, il giro chitarristico? Sì, sì, sì. Poi le canzoni io tendenzialmente le registro tutte chitarra acustica voce per poi farle sentire ai musicisti con cui collabori. Collaboro. E quindi poi il pezzo si è formato. Sì. Sì, sì. E poi sì, infatti. Da lì poi ho fatto sentire al batterista il pezzo, lui ci ha messo la batteria e da lì poi è nato tutto quanto. È un bellissimo pezzo, secondo me, è proprio una bella apertura. Un'apertura decisamente quieta, calma. Quieta. Abbastanza quieta. Non è che il disco sia molto quieto. Il disco ha dei momenti giusti, momenti... È come Fonzi, quieto. Esattamente. Il nostro batterista poi si scatena nel disco, chiaramente. Non so se si scateni, ti scateni anche qua? No, non puoi scatenarti qua. Qui purtroppo non si può scatenare, però diciamo che lui è quello che suona solitamente i pezzi più caldi e quindi è quello a cui affido le batterie un po' più. I pezzi li avevi scritti, prima avevi scritto il primo album, poi quanto è passato... Tecnicamente, non dal punto di vista proprio temporale, tecnicamente avevi già i pezzi pronti per un nuovo album? Fatto assolutamente prima. No. Ti dirò che circa la metà delle canzoni di questo disco sono state scritte proprio a ridosso dalle registrazioni dell'album. Ah, ho capito, quindi nuovissime. Passato tot tempo dalla pubblicazione del primo disco, ho detto, vabbè, ho qualche canzone, è ora di andare in studio a registrare il disco. So che fate pochi live, però vi faccio una domanda che spesso faccio anche alle altre band. Di solito capita che i nuovi pezzi vengono provati suonandoli dal vivo? Capita anche a voi? Spesso capita, ma personalmente è una cosa che non mi piace non fare. Non ti piace fare? Non come mi piace mai, fare perché Matteo? Preferisco che le canzoni nuove vengano proposte in concomitanza dell'uscita dell'album nuovo. È una cosa che... Non lo so, mi sembra... Poi non lo so, io probabilmente sono particolarmente geloso delle canzoni che scrivo e quindi mi dispiace, è come se gli mancassi rispetto alle canzoni proponendole prima di averle registrate, prima di aver pubblicato il disco. Poi magari mi sbaglio, è solo l'opinione di... un'opinione tua che bisogna rispettare. Adesso sentiamo un pezzo dal primo disco. E a proposito di questo, tu hai detto in un'intervista: mi sto sforzando di essere più confidente nei confronti di me stesso e di conseguenza di essere più intimo con quello che scrivo rispetto al disco precedente. Sei preparatissimo. Sì, ho letto nelle recensioni. Okay. Di che canzone stiamo parlando? Quella che hai scelto da che non mi ricordo. Ti ricordi la traccia? Che traccia è dal primo? Non sto disco. Facendo una bellissima figura. Ecco, adesso ci stanno portando il volume del disco, quindi vediamo subito. In ogni caso, cioè, quello che hai detto te si riferiva al primo disco. Questa è la... La seconda traccia. No, questa è... Sì, al di là del discorso del pezzo in se stesso, il ragionamento che hai fatto, a me interessa il ragionamento che hai fatto rispetto al primo disco. Questa frase io la dicevo a proposito del secondo disco, sì, non del primo. Però... Posso anche attaccarmi parlando che il primo disco però è diverso dal secondo, perché nel primo disco c'è meno forza. Ho capito, volevo dire questo qua. No, questo sì, infatti il primo disco è composto da canzoni in cui... Io intendevo in questo certo, senso certo, la frase. Canzoni in cui bene o male prendevo poco spunto da quello che mi capitava attorno, e oppure se prendevo spunto da quello che mi capitava è ben nascosto tra le righe del testo. Questa canzone, nello specifico, che è Ballad for a Lonesome Cowboy. Perfetto, già il titolo dice tutto. Proprio, sì, è una canzone in realtà a metà strada tra il serio ed il faceto. Mm. Perché io, vabbè, passato l'anno 2000, insomma, uno che scrive una canzone che si intitola Ballad for a Lonesome Cowboy sembra un po' anacronistico. Quindi da lì un po' cerco di spacciarla come una cosa piuttosto ironica. Adesso la sentiamo. Ed sì, è un testo questo che mi sono assolutamente inventato di seguito alla, diciamo che è una sorta di sequel, come se fosse un film, sì, una continuazione della canzone di Lee Hazelwood che cantava insieme a Nancy Sinatra, che si chiama Summer Wine. E io mi sono inventato questa sorta di... Perché ti piaceva Nancy Sinatra? Come cantante? Musicalmente? Così, non lo so, sai, sono quelle cose che tu dici... Ma sì, conoscevi che... tutta la discografia? No, assolutamente no. Alcuni pezzi per te. Ero più... ho ascoltato qualcosa di Nancy Sinatra, mi piaceva in particolar modo questa canzone. L'autore è un grande musicista, ha scritto un sacco di cose. Sì, sicuramente. Ok, adesso lo sentiamo. Once I had a dim star. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Beh, insomma, è bella, dai, fra il country e l'inizio e la West Coast finale con Young. Il Young in mezzo, ma non c'è mica niente di male, Matteo, secondo me. Assolutamente no. Io la trovo molto molto bella, molto divertente. Sì, d'atmosfera porta avanti. Piace, secondo me. I tuoi colleghi non sono molto tanto contenti. No, soprattutto non ho capito come mai questa canzone ce l'hanno particolarmente con questa canzone. Infatti, anche dal vivo io continuo a proporre. Forse non l'hanno capita. Forse. Ma no, o forse l'hanno capita fin troppo per quello che pongono il veto. Beh, sono cose che capitano, c'è una democrazia totale nelle band, chiaramente. No, nella mia no. No, la tua non comandi solo te. No, tendenzialmente no, perché insomma diciamo che ho avuto esperienze fin da quando ho 15 anni che suonare in band dove si cerca di far vigere un sistema democratico non esiste. Le band poi vanno a scatafascio, quindi ci vuole un capo assoluto. No, o più che un capo, adesso senza però dire agli altri sì, facciamo il disco e poi il capo fa finta di niente, fa il capo senza... No, io mi assumo le mie responsabilità e certo. Le mie colpe, e quindi dico, io scrivo i pezzi, propongo i pezzi, se vi piacciono bene, se non fa niente, e insomma, poi certo siamo una manica di simpaticoni, comunque non è proprio così. È un capo democratico, però fa quello che vuole. Bravissimo, bravissimo. Poi loro probabilmente potrebbero dirne di peggio, però insomma. Beh, hanno il microfono aperto e potrebbero dire quello che vogliono. Si astengono. E loro vogliono suonare, già il nostro bassista sempre. Dimmi. Non ci ha dato il permesso di parlare. Non ti ha dato il permesso di parlare. Sì, in realtà mentre venivamo in macchina io... Siete metti d'accordo, no, parlo solo io. No, scherzo. Non è vero il discorso di parlo solo io, perché alle ore 23, cari, gli ascoltatori lo sanno, voi non lo sapete, ma forse tu lo sai perché sei venuto tempo fa. Con i Bogaz. Sì, anche lui. Lorenzo, ecco. C'era, sì, sì. Sai che verso le 23 c'era un giochetto da fare? Succedono cose strane? No, assolutamente. No. I dischi da portare su un'isola deserta. Addio, te lo ricordi? Mio. Te lo ricordi? È vero, me lo ricordo. Ecco. Infatti ho detto, in quella radio non ci torno più. Se sono tornato. Quindi non sei preparato stasera? Non mi sono assolutamente preparato. Poi perché è una cosa difficilissima, questa qua mi incasina sempre. No, è una cosa molto divertente. Si esplora, esploreremo. Prima di esplorare, adesso suoniamo ancora, perché noi di Rock Wave, si chiama Rock Wave Live, appunto per quello. Live? Certo, un brano live. Okay, assolutamente live, facciamo, caro Matteo. Facciamo un brano live che si chiama Can't Stand Up, anche questo qua è sul secondo disco. Sul nuovo disco, un altro pezzo, a mio avviso, piuttosto riuscito, adesso cercheremo di riproporlo in qualche modo qui da vivo. Benissimo. Ecco, così io ne approfitto un attimo per ricordarvi che siete sintonizzati con Blu Radio Veneto. Gilles e Maurizio, devi perdonarmi, perché ti spiego anche perché Maurizio ha fatto tantissimi anni di radio con Agostino, e quindi mi è difficile ancora allontanare questo nome dalla mia mente. Beh, sì, è un cordone ombelicale che non si taglia un pochino alla volta, si stacca. Ok, siete pronti, ragazzi? Sì, Matteo è pronto, anche la band siamo pronti. Benissimo. Thank you. for you to stay a little longer and forget your past behind. I can't stand up and feel my legs keep on trembling. Now there's nothing in my way, I will be here from all my fears. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Rieccoci Maurizio. Sì, pardon, sì, abbiamo sentito questo pezzo che si chiamava Can't Stand Up. La solo di batteria l'hai fatto non tanto, perché l'enfasi di batteria qua non si poteva, Lorenzo. Dai, fammi un'altra volta quell'enfasi che è iniziato il pezzo. Dai, fammi un'altra volta, un secondo, Uguale. Abbastanza vicino, abbastanza dai. Uguale, abbastanza uguale, dai. Era Bonzo dei Led Zeppelin, ma va bene lo stesso. Dimmi a te. No, è che la situazione non lo permette. Però sì. Dobbiamo sottolineare che questo pezzo aveva un bel drumming, è molto batterista, molto potente. Sì. L'hai scritto te e l'hai fatto sentire subito a Lorenzo oppure no? No, in realtà questo pezzo sul disco viene suonato da un altro batterista. Però, e questo... Però dal vivo lo suoni te, chiaramente. Dal vivo. Quindi no, non ho sbagliato. Bisogna dare atto a Lorenzo che nella registrazione del disco... per avere appunto questo sound molto percussivo, ci sono ben due batterie che sono state registrate su questa canzone. Sono due batterie che suonano questo. Contemporaneamente, mentre Lorenzo bisogna dargli atto che insomma riesce a sostituire due batterie da solo. Bravo Lorenzo, bisogna dirlo. A proposito, abbiamo citato, ti ricordi tutti i musicisti che hanno partecipato oltre a voi? Più o meno sì. Vai allora, spara. Tutti uno per uno, come i titoli ricordi. Di coda. Allora, ci sono il disco assolutamente qua, il disco sì, allora ci sono assolutamente. Citiamolo anche ci gli sono strumenti. I batteristi che sono i musicisti da cui sono partito per registrare il disco, che sono Beppe Facchetti, noto batterista di Brescia, poi c'è Lorenzo Finamore e Fabrizio Finamore. Non sono l'unico che sbaglia i nomi, No, infatti sembro mia nonna. Fabrizio Finamore e poi Lorenzo Colosio che è qui presente. Mm. Dopodiché ci sono una band che ha tre batteristi, non è mica semplice. No, infatti. Dove trovi? È il modo in cui mi piace lavorare sui dischi, insomma, proporre i brani alle persone che penso che le possano rendere al massimo. Vabbè, poi c'è Alan Cretti al contrabbasso, sempre su Can't Stand Up. Che è un bel giro, bisogna dirlo. Poi ci sono Ronnie Amighetti, che è appunto coproduttore del disco insieme a me, nonché fonico, eccetera, eccetera, che suona un po' di tutto. Dalle percussioni a qualche chitarra acustica, ai cori, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è Giorgio Laini, cantante di un gruppo elettropop piuttosto noto dalle nostre parti, ma anche suppongo altrove. Si chiamano Fräulein Rottenmeier. E siccome lui è un cantante che io adoro, l'ho voluto per fare le voci, alcune voci del disco, alcuni cori in questo disco. Dopodiché chi manca? I tre fiatisti, che sono importanti, che sono pezzo iniziale, Emanuele, Marco e Diego, che sono venuti anche loro a registrare i fiati sulla canzone che abbiamo ascoltato prima. Poi chi c'è? Non mi ricordo, mi dimentico di qualcuno? Dai, citati tutti, sì. Sì, e ovviamente i musicisti che suonano con me, Salvatore, Guglielmo, Lorenzo. Una cosa, tu hai citato una scena viva a Bergamo, secondo te, Ma sì. Al di là del potere o non potere suonare dal vivo, come scena? Ci sono parecchi gruppi? Sì, ci sono parecchi gruppi, la scena è abbastanza viva ed interessante. Più che io non conosco la zona, proprio il panorama musicale della Bergamasca proprio come città, però frequentiamo di più Brescia e lì l'ambiente è sempre stata molto più frizzante, e anche dalle nostre parti che sono Lago d'Iseo e Valle Camonica insomma è pieno di band, di musicisti. Questo è molto positivo. Sì, sì, assolutamente. Quindi... Io mi ricordo fin da ragazzino c'è sempre stata piena l'aria di gruppi musicisti, festival piuttosto importanti. Avete partecipato a qualche festival voi? Sì, purtroppo non quando avevano il nome grosso di una volta, perché noi eravamo piccoli, però siamo riusciti a partecipare poi più tardi a varie riedizioni di questi festival. Benissimo, sono le 22:53, adesso abbiamo un altro pezzo da scaletta che penso sia l'altro pezzo del disco vecchio, mi pare. Sì. Ti ricordi quello? Assolutamente. È perfetto. No. Che numero è di traccia? È la traccia numero 6. Adesso molto probabilmente è Kill the Bull, perfetto. Se non sbaglio, Kill the Bull. Ecco, la sentiamo. Che è un'altra di quelle che a loro non piace. Perfetto, hai sentito tutte le tracce che a loro non piacciono. Sembra che l'abbia fatto apposta. Invece appunto, adesso lo sentiamo. Okay. Ti confermo che è quella. È quella, grazie. Al 100%. Red drops run down your name, Wolverine. You skillfully wave the red cape. Smoke out from the nostrils, snorting from up here. Counter every size for encounter show. Eyes with the beast, and your sword between its shoulders. Empress, it takes guts and nerves of steel. A million smiles on the sun. Has left your chest. Breathless cry. Smell of blood up from the playground. You didn't lack the hidden head. You didn't lack the skill. But the bull can weigh a ton. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. È un grande pezzo questo qua, noi parlavamo mentre il pezzo andava, intanto poteva essere continuato fino a 2, 5, 6, 7, 8 minuti mi si usava una volta, può essere allungato una jam session vera e propria. Cosa dici? Ci potremmo pensare per il futuro. No, è molto bello. È interessante, non ci ho mai pensato. È un po', secondo me, leggermente, ha qualche connotato, qualche liaison, qualche collegamento ai Crazy Horse di Neil Young, quelli elettrici, quelli belli duri, ma duri nel senso positivo, certo, del termine. Sì, sì. No, stai facendo per ora tutti i riferimenti che mi fanno solo piacere, quindi... A me è piaciuto particolarmente questo pezzo, duro nel senso positivo, cioè scuote, muove la gente. Muove, cosa dici? Ma spero di sì, no. Anche loro... Loro sono mossi. Loro sono stati soddisfatti, hanno approvato la tua scelta. Sì. Bene, adesso sono le 23, è quasi le 23 ragazzi, adesso c'è la famosa scelta da fare, i 5 dischi da portare su nella deserta. Compreso il batterista che poi si avvicinerà al microfono numero 2, quello là, Lorenzo, che tu vedi là. Ecco, facciamo cominciare dal leader, cosa dite? Facciamo cominciare dal leader. Partiamo da io, dai. Allora, quanto con tempo calma. Posso pensarci fino hai a mezzanotte? 10 secondi, no, fino a mezzanotte. Ok, allora, partiamo. Porto sull'isola deserta... sull'isola tedesca che porto, può essere deserta anche se è tedesca, anche se, sicuramente. Facciamo After the Gold Rush di Neil Young. Vedi, un momento, ci fermiamo. Come mai questo bellissimo disco di Guarda, che prima del grande successo devo essere di sincero Anders, e dirti proprio tutta la verità, tutta dimmi la verità. Tutta la verità se vuoi, è chiaramente. Perché me l'hai fatto venire in mente tu adesso. Ah, perfetto. Quindi, ma non era qui, no, perché questa cosa dell'isola deserta è una cosa che a me fa proprio andare fuori di testa, perché non ho è perché è talmente vasto il panorama musicale, ma è bello secondo me, perché ti dà anche agli ascoltatori possono capire da dove proviene la musica dei Stryker. Mi sento in gabbia, infatti io ti dico i 5 dischi che porterei se dovessi partire subito per un'isola deserta. Allora, domani mattina probabilmente te ne dirai altri 5. After the Gold Rush di Neil Young. Dopodiché farei un perché non ci mettiamo anche un The Last Waltz della band. Come mai ami la band? Adesso voglio sapere perché ami ma la perché band. Soprattutto nel concerto The Last Waltz, che è bellissimo, a parte che triplo poi, album, ricordate ragazzi, adesso album. In CD a doppio, quindi ecco. Mi permetterebbe di portare ben 6 dischi sull'isola deserta. Perfetto. 5 titoli ma ben 6 dischi, quindi va tutto a mio vantaggio alla mia discografia storico. Dell'isola deserta. Bello, molto bello quello. Perché c'è tutto e c'è quindi tutto. Posso anche evitare di citare tutto quello che c'è stato prima e con quello mi posso accontentare, insomma. La band è stato un gruppo seminale, possiamo dire. Assolutamente. Seminale sì. Per tutto, per tutti, per tanti musicisti. Al di là che The Basement Tapes, ragazzi, ricordatevi The Basement Tapes, Dylan e band. Sicuramente, però almeno in The Last Waltz, appunto dicevo... Sono sdoganati da Dylan, secondo sono me. Sono sdoganati da Dylan, anche se c'è ancora sì, una certo, grossa... chiaramente sì. Allora, secondo, terzo... Terzo disco, adesso dimmi. Comincio ad andare in crisi. Terzo disco, facciamo un bel discone degli anni 90, che sono dai. Il periodo in cui io sono cresciuto, proprio adolescente. Sei molto giovane rispetto a me, un chiaramente. Un bel discone degli anni 90, Welcome to Sky Valley dei Caius. È una bella proposta, non è conosciutissimo, però belli tosti. Belli tosti, belli è tosti. La musica con cui io sono cresciuto e penso che può andare, può sia, andare. Sia anche quello rappresentativo del... Dopodiché... Tanto Lorenzo e Salvatore stanno pensando. Sì. Dopodiché me ne mancano due. Siamo addirittura d'arrivo. Facciamo un... Facciamo, perché no, anche se sembra un po' così banale, un American Recordings 3 di Johnny Cash. Che bello Johnny Cash. Non ricordo se ci sia One su quello. Non sì, mi ricordo. Deve essere sul terzo One. Sul terzo. Cosa possiamo dire di One? L'hanno detto tante persone. Ma quando Bono disse è più bravo di me, l'ha fatto meglio di me. Sì, aveva ragione. Assolutamente ragione. No, aveva assolutamente ragione. Bellissima. Perché io non sono un amante degli U2, eppure sono Johnny Cash è riuscito a farmi piacere assolutamente una canzone degli U2 che... Prima non ami gli U2, non sono nelle tue corde. Non sono nelle mie corde. Mi li stimo, li rispetto, fratelli. Però non, sì, però ecco, non sono tra i miei ascolti. I cattivi hanno detto: non si sono fermati a Joshua Tree, hanno fatto qualcosina. No, hanno fatto tantissimo. tantissime cose. Molti sono legati a Joshua Tree, questo è vero. Ma... sì, ma a me il disco che mi piace di più dagli U2, per esempio, è Under a Blood Red Sky, che è questo disco dal vivo molto molto bello. Ma hanno fatto tante cose belle. Però insomma, abbiamo detto One è la versione Johnny Cash, immirabile dell'uomo in nero. Dove Johnny tra l'altro c'è Solitary Man. Certo, ecco, Solitary Man è un famoso pezzo che forse fatto da moltissima gente, è fatto anche da Gianni Morandi, se perdo anche te in italiano. Tra l'altro, quello è un pezzo di Neil Diamond, famoso Solitary Man. Bellissimo, in ogni caso, ok. Siamo a quattro, facciamo cinque. Vai. Vi stupisco con effetti speciali? No. Vai. Ah, ecco, facciamo un bel... Arco cane. Non ti ricordi? No, adesso me ne sono venuto in mente almeno una decina. Dai, proprio no, ancora, un altro, ancora un altro. Facciamo un bel Cure for Pain dei Morphine. Vedi, un altro gruppo. Posso dirti una cosa, caro Matteo? Posso dirti una cosa? Sei stato, comunque, in 8 anni che facciamo, caro Gil, questo giochetto, che è stato un giochetto, vi spiego la storia, è stato ripreso da un famoso invito del Mucchio Selvaggio di molti anni fa di portare sull'isola deserta determinati dischi. Io ho ripreso l'invito e mi sembrava, visto che io sono un abbonato del Mucchio del numero uno, cioè da molti anni, sì. Ho ripreso questa storia, mi è piaciuta. Sì, nel senso che è un grandissimo appassionato di musica, veramente la grande. Sono sempre legato al Mucchio e tutte le riviste musicali, ma considero il Mucchio la rivista musicale per eccellenza italiana, musicale. Hai citato questo pezzo, questo dei Morphine, gruppo straordinario, interessante, sei stato uno dei pochissimi che ha citato i Morphine. Io sono contento, i Morphine erano un bel gruppo. Assolutamente bravo. Sì, anche con quelli io ci sono sei cresciuto sono cresciuto con i Morphine. Sì, sì. Lorenzo, tocca a te adesso, vedi che tocca a te, adesso ti avvicini al microfono, numero 2. Tiro? Sì, puoi tirare. Puoi senza tirare. Paura? Tiro, ho paura. No, non devi aver paura. Paurissima. Beh, il batterista è in piedi, cari ragazzi. Certo, allora ovviamente vale ed è anche un bell'uomo, tra l'altro. Era più bello una volta. De gusti, non disputando. Niente, ovviamente vale dire che Matteo mi ha fregato tutti i dischi. No, ma lui ha cominciato per primo. La ruota è così. Che devo dire? Allora, niente, fammi pensare un attimo. Io pensavo un Trouble di Ray LaMontagne. Bravo, così me lo presti dopo. Citami questo musicista nuovamente. Ray LaMontagne. Che io conosco, ma non è conosciutissimo. No, non è un conosciutissimo, è un cantautore. Americano. Barbuto. Sì, barbuto. Americano. Che sta avendo un buon successo. Un successo, ha una voce molto bella. Molto bella, straordinaria, sì. Molto particolare. E io lo sto seguendo, ma anche tutti noi lo stiamo seguendo da qualche anno ormai. Bene, positivo. Una bella scelta. Mi è piaciuto molto. Poi andiamo su un classico, visto che prima stavamo parlando di Hills e anche prima noi in macchina stavamo parlando di Hills, perché c'è il concerto, vabbè, non voglio fare pubblicità, però andate a vedere? Sì, come andremo a vederlo. Avete già preso i biglietti? Io sì. Tu no? Io no. E te, no. Salvatore, niente. Solo te hai preso? Io li ho presi, vabbè. Dove sarà? A Milano? A Milano chiaramente, sì. E quindi l'album è Shoot and Annie, non so se si pronuncia così, comunque no, va bene. Mi piace molto questo disco. Ovviamente io associo i dischi a un particolare periodo della mia vita, per cui questo è un bel periodo. È un bel periodo. Siamo a 2, giusto? Esattamente, è ancora tre, perfetto. Andiamo sugli anni 90, così anch'io vado sulla mia adolescenza. Voi siete giovani, ragazzi, quindi dovete farlo. Ti sparo un Sleepy Eyed dei Buffalo Tom. Bello, hai fatto bene. Gruppo tosto, interessante, bravo. Che ho adorato e adoro ancora. Non sono mai riuscito a vederli dal vivo, però. E non è che siano venuti tantissime volte in Italia. No, penso proprio di no. Appunto. Però, vabbè, questo mi piace. Poi ne abbiamo altri due. Sì, allora, anche se è un artista che ha già citato Matteo, però lo ricito anch'io con un altro disco, regola vale questa. Harvest di Neil Young. Ecco, lui è citato After the Golden Rush. Harvest è il successo planetario, il successo di tutti. Sì, però ci sono delle canzoni che mi rimarranno sempre e mi piace al morire. Siamo a 4? Yes. 5, allora vediamo un attimo. C'è il nostro bassista, sì, che scalpita. Adesso perché anche me, adesso 5 ne sono venuti in mente. 17, 20. 17, però giusto per. Vediamo, visto che andrò a vederli poi a Barcellona. Va bene. Jesus and Mary Chain. Adesso ci fermiamo un secondo. Sono anni, molti anni che non suonavo. Bravo, bravo. Hai fatto bene. Io, cioè, quanti anni è che non suonano? Che non fare un disco? Beh, penso da Monkey, che è l'ultimo disco, che è del fine anni 90. Sì, se appunto, non sbaglio. Esattamente. Jesus and Mary Chain, vai a vedere Barcellona. Sì. Bello. Cioè, c'è un festival per cui ci sono anche loro. Hai preso il biglietto già? Ho già preso il biglietto. Hai fatto bene. È una scelta azzeccata. Particolare, perché loro sono particolari, sì. Un sound. Hanno fatto scuola loro, Sì, sì, sì. Dobbiamo assolutamente. Dirlo, assolutamente. Assolutamente. Tocca a te, caro bassista. Avvicinati al microfono. Sì, sì, ci sono. Io vorrei beccare un giorno Maurizio qualcuno che ti propone un qualcosa che non conosci. Qualcosa capita, qualche volta capita. Gli altri li ho conosciuti, perché li conosco, perché li ho sentiti qua a Rockaway, caro Gil, abbiamo sentito centinaia e centinaia di dischi. Vai, Salvatore. Ecco, quello nuovo non sarò io. Allora, come prima cosa vorrei approfittare del primo momento di disattenzione di Matteo per fregargli Cure for Pain. Ah, vero, vero. E portarmelo io. Bene. Però posto che lo porta lui, lo può prestare, va bene così. E io scelgo cose molto classiche, ma meravigliose. Scelgo le Zeppelin 4, sicuramente. Benissimo. Hai sentito, G? No, possiamo, no, non so se riesci a prendere Stairway to Heaven. Adesso vediamo. Vai pure. Poi scelgo sicuramente Freak Out di Frank Zappa. Ecco, bene, è una scelta molto interessante. Perché Frank Zappa, questo straordinario musicista che ha fatto di tutto? Perché mi piace tutto quello che ha fatto. Tutti i suoi dischi li conosci? Una buona parte. No, tutti è impossibile, perché sono... Sì, sono tantissimi. Però in buonissima parte, sì, è uno degli artisti che ho molto amato, che tuttora amo. Anzi, è una bellissima scultura di Frank Zappa nel mio salotto, che troneggia nel salotto, fatta da un amico, un scultore molto bravo. Grande Frank Zappa. E a proposito di Frank Zappa, dobbiamo ricordare agli affezionati di questa trasmissione che... La notizia di poco tempo fa, stanno ristampando tutto il catalogo di Frank un'altra volta, grazie, perché si sono messi d'accordo con la famiglia, eccetera. L'infinito catalogo di Frank Zappa. I zappiani italiani per antonomasia sono quelli arrivati secondi a Sanremo. Elio, sì, le storie tese. Esattamente. Cosa dici, Matteo? Non sei d'accordo che sono zappiani? Sì, assolutamente. Hanno inciso pezzi di Frank Esattamente. Zappa. Sono bravissimi Elio, le storie tese. Assolutamente bravissimi. Vai, Salvatore, ancora? E poi che mi porto i Beatles, e per non sbagliare sinceramente mi porterei l'antologia, in modo da averne più possibile. Quindi tagliamo la testa al toro. Sì, ma non citi il periodo beatlesiano che ti piace di più. No, c'è tanto, veramente tanto. Ecco, Gilles ha scelto i Jude, che sinceramente non ti va tanto. Però è un periodo, va tutto bene, quello dei Beatles. E poi cose anche molto diverse, nel senso mi porterei sicuramente De André, a cui sono legatissimo, e probabilmente Cresa de Ma, quindi prodotta da Pagani, una collaborazione, il primo, secondo David Bell, il più bel disco di musica etnica o di world music del mondo, o uno dei più belli del mondo. Siete d'accordo, ragazzi? Sono d'accordo. Siete d'accordo con David Bell? Sì. Siete d'accordo tutti con David Bell? Anche noi, anch'io praticamente. E poi? E poi ne manca uno. E poi non saprei veramente, dalle Murder Ballads di Nick Cave. Ecco, abbiamo citato Nick Cave, prima ho citato Nick Cave con Matteo. L'ultimo disco di Nick Cave, che è uscito da poco, è un bellissimo album. Un album che ritorna, non dico ai Murder Ballads con PJ Harvey, però ritorna a quelle ballate. Lui era bravo a fare queste robe, è bravo a fare tutto, però le ballate aveva un più, riusciva a fare le cose meravigliose. Disco nuovo di Nick Cave è bellissimo. Da sentire assolutamente. Non ho ricevuto niente dalla casa discografica, assolutamente, niente. Non aveva bisogno. Bene, abbiamo concluso questa bella cavalcata. Vedi che siamo riusciti, Matteo. Sì, è stato faticoso, sì, anche perché adesso sì. Te ne direi altri 5, però lo so. Va bene così. Ho dimenticato Jimmy. Come mai hai dimenticato Jimmy? Ce ne sono c'erano anche i Doors, ne abbiamo tanti. Va bene. Ok, sono 23:11, adesso cosa possiamo fare? Se siete d'accordo? Facciamo una canzone dal vivo, dai. Esatto, volevo proprio dire. Che cosa, Matteo? Facciamo sempre un brano tratto dal nostro secondo disco. Quale? Si chiama Too Hot to Die. Ah, benissimo, ok. Adesso ci prepariamo, come sempre il batterista è già predisposto, Matteo si mette in posizione, microfono e cuffia. Domani sera abbiamo ancora un live. Esattamente, domani sera abbiamo un live con un musicista ligure. Che si chiama? Non me lo ricordo. Adesso dopo lo cerchi nel sito. Dopo lo citiamo. Esattamente. Adesso tanto Matteo, ecco, messo il capotasto. Mi pare giusto. Adesso partiamo. Ok. Okay. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Il blues non ha mai fatto male a nessuno, Matteo. Questo era un pezzo assolutamente blues. Bello, bello blues, bello potente, bello, bello nero, come si dice? Bello nero, bello nero. Io mi piace bello così. Nero. Cosa ti dici? Mi piace bello nero. Sei d'accordo? Io lo so. Sì, nonostante secondo me sì, nonostante bello nero, nonostante la canzone è tratta di uno che sta camminando sotto un sole cocente. Non parlo da quindi quel punto di vista nero, del testo, il ma nero è dato da No, no, perché ci sta assolutamente, perché il nero è dato da questa situazione assolutamente terribile. È un po' un finale molto torsiano, secondo me. Cosa dite? Sì. Io sì, l'ho sentito. Lorenzo, sei d'accordo tu che hai citato i Doors? Si può avvicinarti al microfono. Anche Salvatore, chiaramente. Sì, sono d'accordo. Mi avvicino per dirti di sì. No, io l'ho sentito così, può darsi. Che ci sia, se sia stato un pezzo blues, siamo tutti perfettamente sulla stessa linea. A me è piaciuto molto il riff che hai fatto col capotasto. Hai messo il capotasto e poi hai messo come si chiama quel? Lo slide. E lo slide. Lo slide, anche quello ha dato una colorazione non da poco. È assolutamente. Bello, bello. Sono molto contento, molto soddisfatto, secondo me. Anche io. Bene, ma siamo tutti soddisfatti. Esattamente. Ok, questo era sempre tratto dall'ultimo disco. Dobbiamo ancora citare il disco, il titolo del disco. Ah, il titolo del disco si chiama, il disco si intitola Don't Be Afraid and Trust Me. Adesso facciamo le cosiddette i cosiddetti messaggi di prammatica. Dove si può acquistare il disco? Allora, si può acquistare ai nostri concerti. È che il problema è che, come dicevamo prima, di concerti non ce ne sono facciamo poco. Però quindi, si può acquistare in altro modo anche. Si può fisicamente, acquistare fisicamente nei vostri concerti oppure fisicamente nostri, altrimenti sì, allora potete ascoltarlo in streaming su SoundCloud, digitate Staggerman e vi appariranno sia il primo che il secondo disco. Potete ascoltarlo in streaming, state attenti perché c'è anche un DJ di non so dove che si chiama Staggerman. Aia. Che ha un pezzo su quindi ci può fare confusione. Non si può fare confusione, però vabbè, lo fate partire al limite, sentite roba che sembra molto da DJ, non sono io insomma. Chiaramente no, non è la band. Dopodiché si può acquistare su, vai. Lo sappiamo, Bandcamp. Bandcamp si può acquistare, ora non chiedetemi o prendendo contatto su Facebook o al sito staggerman.com. Ecco, importante. Ecco, meno male che è intervenuto lui, perché io di queste cose sì, io le cose che riguardano mettersi al computer purtroppo. E siamo in due allora. Siamo in due, io e te. Gile è molto bravo. Io e te, cioè io rispetto, sei un grande musicista, io non so suonare la chitarra, ma mettermi il computer è la stessa roba, come lo sapessi? Sì, bene o male, io al di là di navigare e mandare le email e così, poi più che altro non ho la pazienza di star lì, guardare, iscriviti, fai, carica, scarica, no. C'è anche qualche bel video che si può trovare del vostro gruppo? Sì, allora, all'interno del disco, secondo disco, se riuscite a venire a un nostro concerto ed acquistarlo fisicamente, c'è una traccia video. Se voi lo mettete nel computer vi apparirà, se avete un PC, facendo tasto destro apricon, apparirà una traccia video di circa 10 minuti che è una sorta di documentario che narra insomma diciamo le nostre vicissitudini durante la gestione del disco. Che vicissitudini ci sono state? Che ma vicende ci sono in realtà state? No, era solo, mi piaceva il termine vicissitudini. Okay. No, in realtà più che altro abbiamo deciso di togliere l'audio reale di quello che stava accadendo nostro, perché per una sorta di pudore nei confronti e allora tutto è stato sostituito con una musica di fondo e ci sono il documentario è suddiviso in tre parti che ognuna caratterizza le tre parti, i tre posti in cui è stato registrato il disco. Ma c'è il labiale, la gente può interpretare. Si sente il labiale, ma si vede il labiale, però si può sopportare, sì, si va oltre. E se qualcuno volesse cercarvi su YouTube? Altrimenti su YouTube c'è una riduzione di questo video che c'è sul disco e trova anche il video della canzone Summer Wine che abbiamo citato prima, che abbiamo inciso per la compilation di Onda Rock che fa tutti gli anni e ci hanno chiesto di partecipare, siamo stati contenti ed orgogliosi. E appunto abbiamo, siccome la canzone appunto era quella di cui prima parlavamo, quella di Lee Hazelwood che cantava con Nancy Sinatra, ho deciso di chiamare Lalla Domenichini, che è venuta qua, che è venuta fa un po' di tempo fa, ho detto, esattamente, per fare questo duetto, simpatico duetto, insomma. E su YouTube troverete, se digitate Staggerman Summer Wine, apparirà il video di questa canzone. Posso dirti una cosa, Matteo? Hai avuto difficoltà a scrivere il pezzo che abbiamo sentito adesso? Dei pezzi che era anche nato come arrangiamento, dai. Allora, la difficoltà è nata nel momento in cui io questo brano continuavo a proporlo a loro, ma in versioni assolutamente sconclusionate. Cioè, cosa vuol dire? Ma non mi ricordo, erano della roba che non riuscivamo ad arrangiare, il pezzo non girava. Sembrava, quando uno porta un pezzo e lo propone ai musicisti, capisce subito se il pezzo funziona, non c'è bisogno di... E questo pezzo non funzionava. Però io... Mi ci ero affezionato e l'abbiamo riprovato finché poi non abbiamo deciso di cambiare totalmente, di stravolgerlo completamente. Infatti ora non mi ricordo com'era la versione precedente, diversa. E grazie soprattutto al loro apporto siamo riusciti a tirar fuori questo pezzo. Come lavorate in studio? Che approccio è nato? Si fa in studio voi quattro praticamente? Quando siamo noi quattro io... Tu hai detto, prendi il pezzo, il carovaccio del pezzo, scheletrico il pezzo, loro lo amplificano, assieme lo amplificate, lo allargate, lo restringete a seconda del modo, dell'indole, del momento, e poi viene fatto il pezzo. L'hai detto tu, è così, proprio così, ça va sans dire proprio. Ah, perfetto. Benissimo, 23:22, ci siamo quasi, siamo arrivati verso, mancano circa mezz'oretta alla fine del programma, quindi abbiamo ancora molto tempo. Non so se ci sia ancora un pezzo da disco stavolta. Sì, c'è. Che traccia c'è? La traccia numero 7 dal nuovo CD. Disco. Ecco, questo ce l'hai davanti. Oh, questo è un pezzo che non so se piacerà a tutti. Questo è proprio il pezzo, la ballatona, proprio quella bella. La canzonciona, proprio quella che non può mancare all'interno del disco, dove uno rischia anche un po' di... non so se può dire... sputtanarsi. Ormai sì, l'ho detto. Rovinarsi, dai. Rovinarsi. Però insomma dammi il titolo del pezzo. Everything is Nothing. Perfetto. Heaven ain't no good for you. Heaven ain't no good. stay together. Tomorrow morning you go back to your mail. I'll go home and pack my bags. I'll quit my woman and it makes us cry. It will make us cry. Now all I got is you, my dear. I really hope you can do the same. Don't be afraid. Don't be so frightened. I just wanna be a man that you've got in your life. I just wanna be the one and only that you'll have in your life. Cause without you. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Estremamente rilassante, Maurizio. Sì, esattamente, con finale molto acido, psichedelico, come piace a me. Io ho una certa età, lo ripeto, senza nessun problema, e certe sonorità ricordano a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, soprattutto alla fine, non all'inizio. Il pezzo si sviluppa in modo diverso, però alla fine sì, è psichedelico, perché c'è niente di male, la psichedelia è una cosa meravigliosa, secondo me. Non so, voi siete, cioè voi non avete sentito, non avete tastato l'età della psichedelia, eravate chiaramente non presenti. Sì, no, abbiamo ascoltato senz'altro i dischi dopo, però non averlo vissuto immagino. Non è cosa importante. C'è un peccato. Io ricordo, cioè ricordo. Psichedelia si citavano i famosi 6-7 ore di Grateful Dead, tanto per cambiare, cioè una jam session continua e non finiva mai. Poi c'erano i Beautiful Day, c'erano i Jefferson Airplane, c'erano un sacco di gruppi straordinari, però certe cose che sono rimaste, sono sviluppate chiaramente nei gruppi giovani come i vostri, è una cosa positiva secondo me, non è stato buttato tutto al macero, no, e questo è importante. No, assolutamente, anzi adesso che mi fai venire in mente c'è un disco di Grateful Dead che avrei portato sull'isola deserta, ma ora non lo posso più dire, aiutami, ce ne sono tante. Non cos'è, Dark Star, no, dimmi un altro. Sì, ho capito cosa intendi. Hai capito anche tu? Abbiamo capito noi. Abbiamo capito. Siamo forti. Dopo ci citeremo. Beh, Dark Star è un pezzo di 20, 25, 30 minuti, da quando si facevano le cose lunghissime. Beh, lui è il leader straordinario. abbiamo citato i Grateful Dead perché recentemente... Dai, quello un po' più country, quello sì, Walking Among the Dead. No, no, un altro. Dopo guardiamo la discografia dei Grateful, così dopo sappiamo dire ai nostri ascoltatori affezionati che devono sapere la grande discografia dei Grateful. Quindi praticamente c'è un po' un pizzico di psichedelia in questo pezzo che può, anche questo può essere adatto per allungarlo all'inverosimile, all'infinito. Ma infatti dal vivo a me... Loro non mi seguono, non sono assolutamente d'accordo. Però questo pezzo, soprattutto il finale, mi piace tirarlo lungo. È bello, ma si presta molto, secondo me. L'idea di prestarsi molto, come te è venuta? In studio avete fatto questo particolare risvolto, questa colorazione un po', certo, un po' malinconica sulla penombra. Cosa dici? Sì, assolutamente. Sì, poi c'è questo clarinetto che secondo me clarinetto è molto importante. Che diciamo che è quello che impreziosisce questa canzone, che secondo me altrimenti sarebbe un po' troppo melensa, un po' troppo così. E invece questo clarinetto assolutamente suonato fuori dagli schemi la rende. L'idea del clarinetto è stata tua? In realtà era in studio, era presente in studio. Era il clarinetto, lo suona sempre Guglielmo, il nostro tastierista, e appunto si era portato dietro il clarinetto, ha voluto provare così. Ha detto provo a fare qualcosa e ha detto ha provato bene, buona la prima. Buonissima la prima. 23:32, adesso abbiamo circa mezz'oretta, intanto scaldiamo ancora i motori, li abbiamo scaldati per un'ora e mezza, ma continuiamo a scaldarli con cosa adesso? Suoniamo dal vivo? Ma certamente. Allora facciamo un'altra canzone proprio così, una canzone che farò da solo. È la prima, quella che apre il disco nuovo. Si chiama Maybe I Want. Esatto. E adesso la fai da solista? La faccio, sì, come anche su disco. Chiaro, insomma, chitarra, acustica, così. Voce qua, un po' diversa, però. Ci proviamo. Quando vuoi siamo pronti. your funny words nevermore. Maybe I won't touch the softness of your pearl white skin nevermore. Maybe I won't feel the sweetness of your body. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rieccoci Maurizio. Eccoci qua, 23:37. Adesso mentre Matteo si siede, ecco, si è seduto, ha fatto una ottima performance del pezzo da solista praticamente. È caduta anche la cuffia, mi dispiace. È caduto, e beh, fa parte del gioco dal vivo, cade un po' di tutto. E bella performance, un pezzo molto, molto sentito. Un intervistatore ti ha chiesto se c'è una vicinanza tra i luoghi bergamaschi e i luoghi americani che tu praticamente citi. Da un punto di vista oggettivo, purtroppo non te lo so dire, perché sfortunatamente non sono mai andato negli Stati Uniti. Però da un punto di vista così umano. Umano mi piace pensare che sì, insomma, diciamo che. Per il punto di vista parla della tua terra, praticamente. Ma sì, ci sono dei grossi riferimenti, magari non proprio chiari, però insomma, parla anche di come si vive dalle nostre parti, insomma, che poi. Probabilmente non è neanche così, non è così diverso come si vede dalle altre parti, certo, però certo. Insomma, diciamo, sono molto affezionato al luogo in cui abito, alle zone in cui abito, perché proprio a me piace stare vicino al lago, poi c'è subito dietro la montagna, una cosa, insomma, meravigliosa. È il paesaggio, diciamo, che per chi lo sa apprezzare, perché poi soprattutto questo è una cosa che ho imparato con il tempo, perché vivendoci uno non ha, probabilmente non tende ad apprezzare quello che ha attorno a livello paesaggistico, e invece poi a un certo punto, soprattutto crescendo, mi sono reso conto che, e anche girando in giro, andando in giro anche per l'Italia in altri posti, insomma, mi sono reso conto che, e nonostante tutto, non è poi così male il posto in cui viviamo. E il disco si apre, cioè, con questo pezzo assolutamente da solo. Come mai hai deciso così, rispetto alla band che è qui presente, che non parla? Ho deciso così perché secondo me questo è il brano con cui una persona avrebbe deciso di chiudere il disco. Ah, ho capito. Allora io invece l'ho aperto. Non può essere una continuazione del disco precedente, o no, o mi sbaglio? Può essere, sì. Poteva benissimo essere l'ultimo brano del disco precedente che è finito su questo collegamento, praticamente. Sì. Benissimo. E una cosa che ho notato, ecco, parliamo anche dei disegni che ci sono qua. Li hai fatti te questi disegni? Sì, sono schizzetti che ho fatto. Che ho letto a qualche parte, li fatti quando? Li ho fatti ora. devo rispondere la stessa cosa che ho risposto? No, rispondi come vuoi. No, l'ho fatto quando avevo l'esigenza di chiudere il disco, insomma, e mi mancavano alcuni brani per completare la scaletta del disco. Insomma, ero lì col taccuino aperto, e mentre ero lì che pensavo a cosa scrivere, ho scarabocchiato e poi mi sono perso, insomma, nello scarabocchio, ed è uscito questa. La copertina, quindi disegnino. L'hai decisa te praticamente? L'ho decisa io, perché dopo ho pensato due o tre possibilità, insomma, pensavo prima alla fotografia, poi un disegno fatto da altre persone, eccetera, eccetera. Poi alla fine il disco stava per uscire, le canzoni erano pronte, serviva la copertina, e alla fine ho scelto questa. Mi sembrava anche piuttosto adatta, insomma. Sì, certamente, decisamente adatta. E anche molto probabilmente pertinente con quello che volevi dire, con quello che nel disco. Hai qualche pezzo nuovo già pronto o no? Assolutamente no. Ho tante idee, tanti abbozzi di testo da una parte, tanti abbozzi di musica dall'altra, ma che non riesco a collimare. E quindi aspetto l'ispirazione. È difficile scrivere un pezzo completo, tutto dall'A alla Z. Il problema è che quando ti viene non sembra così difficile. È proprio quando te aspetti che ti venga che sembra una... E come lo afferri, come lo catturi? Adesso voglio sapere, perché mi diceva una volta, tempo fa, quando l'abbiamo intervistato, molto molto tempo fa, caro Gil, per esempio Finardi, lui prendeva il pezzo e scriveva su un taccuino. Adesso ci sono i telefonini, ma una volta non c'erano i telefonini, c'erano i taccuini, e mi prendeva l'idea del pezzo su un taccuino. Dottor Matteo, come lo prende l'idea del pezzo? Lo scrive su un taccuino o usa il telefonino anche lui? No, allora diciamo che io ho Lorenzo sta ridendo, taccuino a casa, e ho la mia agendina, proprio non palmare, proprio carta e penna, su cui io mi segno delle idee se sono in giro, e che poi riporto sull'agendina di casa, sul taccuino di casa. Il problema è che nel mio caso le canzoni nascono proprio in maniera totalmente opposta l'una dall'altra, nel senso che o mi viene l'ispirazione proprio fulminea e in 10 minuti è pronto il pezzo, o altrimenti ci metto una vita a tentare. È possibile che un ritornello non ti entra dentro per mesi, anche l'anni? Assolutamente. Era il caso, la canzone che ti dicevo prima, Money Walk, certo. Che avevo la musica e la melodia che mi giravano, non riuscivo a trovare un testo, se non che poi finalmente, in 10 minuti, il testo l'ho scritto, ho detto guarda, sembrava lì che è il suo, è proprio, sembrava che lo chiamasse. Quindi questo è il modo di scrivere di Matteo. Ma sono anche fiducioso, insomma. Poi adesso, vabbè, non c'è in programma di fare il disco, non sento l'esigenza non sento l'urgenza e l'esigenza di scrivere. Se riuscissi a scrivere qualcosa, sicuramente non perderei l'occasione, però per ora sono abbastanza tranquillo. E poi quando arriva il momento in cui si decide adesso facciamo il disco nuovo, servono canzoni nuove, che mi sento da solo, mi metto pressione da solo, e allora lì in qualche modo qualcosa scatta. Non sei abbandonato, ti fai abbandonare. Mi faccio abbandonare. Anche se non è proprio giusto dire mi faccio abbandonare, però mi abbandono. E lì in quel momento allora comincio a tirarmi in barca e a scrivere. Quindi sei da solo. Benissimo, sono le 23:45, abbiamo 5:15 d'ora. Sei stanco? No, un po' affaticato. Caldato. È caldo della musica. È caldo della musica. Allora, non so cosa possiamo fare. Secondo me potremmo sentire un altro pezzo da disco. Ci riposiamo un secondo, anche se la scaletta è finita. Poi scegli un altro se vuoi da disco. Sei d'accordo? Sì, il prossimo va benissimo, quello che avevamo stabilito. La traccia 4? La traccia 4 del disco 2? Sì, dell'ultimo album. Ah, ok, sì, va benissimo. La canzone che abbiamo già proposto prima. Ora la sentiamo dal disco, dove c'è un arrangiamento piuttosto interessante. Sentiamo il titolo ancora? Can't Stand Up. Perfetto. Stay a little to stay a little longer and forget your best behind. I can't stand up and feel my legs keep on trembling. Now there's no feeling my way, I will be healed from all my pain. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa è veramente, secondo me, trascinante, ragazzi. Sì, permettete, cioè, sono tutte belle, però questa mi dà un qualcosina in più. Sì, dobbiamo sono contento, sì. Dobbiamo ringraziare il nostro batterista che ha fatto un sacco di stop and go in questo pezzo. Stop and go. È vero, non è così. Lorenzo non dice niente. Sì, io dico da qui, cioè, lo so che suonano in questo pezzo. No, lui non suona. Ecco, appunto. Ecco, questo però... qua è il famoso brano. con due batterie in cui lui non suona, ma dal vivo fa due batterie. Esattamente, fa due batterie. Ci sono tanti stop and go in ogni caso in questo pezzo. E mi piacciono, è interessante. Adesso sono quasi le 50. Allora abbiamo deciso di fare questo. Adesso suoniamo un pezzo dal vivo e poi salutiamo e facciamo il rush finale. Dal primo pezzo dal vivo, che cosa, Matteo? Cosa ci fate sentire? Ora faremo un pezzo tratto dal primo disco. Dal primo disco, si chiama Sour Times. E se non sbaglio, è la canzone che apre il primo disco. Benissimo, è un bel pezzo, secondo me. Un pezzo abbastanza allegrotto, almeno su disco. Ora tentiamo di renderlo un po' meno allegrotto. Ma sì. Oh, ok. Maurizio, ricordiamo nel frattempo, se qualcuno per caso si fosse sintonizzato adesso, siete in compagnia di Blu Radio Veneto, Maurizio Gil ai microfoni, e ancora 10 minuti circa di trasmissione. Circa di trasmissione con questa band che viene da Bergamo, praticamente. Stagger Man. Sono pronti, Stagger Man? Matteo, sei pronto? Siamo pronti. Ok, benissimo, partiamo. Hanging around you on a carpet made of Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci Maurizio. Siamo agli scoccioli di questa bella cavalcata con gli Staggerman. E va al volare quell'amplificatore, sì. Sì, bello. Che bello. Cari ragazzi, cari ascoltatori, abbiamo un amplificatore va al volare, una cosa molto bella, molto rocchettara, secondo me. Assolutamente sì. Poi è bello l'amplificatore va al volare perché ti permette di avere, insomma, un bel suono. È un bel suono, un buon suono caldo. Caldo, senza bisogno di pedali, esatto, pedali senza come bisogno sto facendo io adesso. Esatto. Abbiamo sentito il pezzo tratto dal disco precedente, dal disco vecchio, e poteva essere presa come una ballata, un po' west coastiana, leggermente west coastiana, non so Matteo se sei d'accordo. Ma sì. Può andare. No, non eri, dalla faccia tu non eri proprio d'accordo. No, anche perché insomma quando... No, io l'ho sentita così qua, ma, questo no, ma va assolutamente bene, insomma, quando scrivo o propongo da vivo una canzone non mi faccio... Non Beh, non è mica, non è mica una brutta cosa. No, assolutamente. Infatti, assolutamente. Ma questo è, è bello che lo dica tu, non lo devo dire io da ecco. Che parte ho preso. Insomma, no, ma non hai preso. Cioè, io l'ho sentita così. Questo odore, per modo di dire, questo ricordo, ecco. È la West Coast del Lago di Seo. È la West Coast del Lago di Seo, perché puzza, no? Puzza. Detto anche West Costa Volpino. Costa Volpino è il paese. Adesso no? Ricordiamo le cose. Titolo del disco, dove si può trovare, il tuo sito e se, com'è che è stato autoprodotto praticamente? Ovviamente tutto autoprodotto, infatti no, noi siamo piuttosto orgogliosi del fatto di aver ricevuto un bel po' di recensioni. Molto belle, molto positive. E tutte molto positive, soprattutto sulla carta stampata, sì. Vedi Rockerilla, Rockerilla vedi Mucchio Selvaggio, esatto. In cui abbiamo avuto delle recensioni assolutamente entusiastiche e credo sia... un caso rarissimo per, sì, per una band emergente, autoprodotta al 100%. E che proprio manda il disco a loro e li contatta di persona piuttosto che tramite manager e agenzie. Perché dobbiamo fare un appello? In realtà noi abbiamo un manager che è un nostro amico che abbiamo costretto a fare il nostro manager. Ah, perfetto. Perché noi abbiamo detto, ma ci sembra più credibile se invece che siamo noi... sei tu metti tu la faccia al posto così siamo a posto insomma. Quindi dobbiamo ribadire un'altra cosa, tutte le recensioni positive, ma cari organizzatori, chiamate Instagram, chiamateci insomma, fare qualcosa, noi no? Veniamo a suonare, non è che poi riterate indietro. No. Allora ripetiamo il sito, Matteo. Allora il sito è www.staggerman.com. Troverete notizie, per ora il sito è pronto ma va ancora un attimo rivisto, insomma, oppure però sul sito comunque trovate tutti i link che ci riguardano, per esempio quel link a Facebook, che quello è aggiornato molto spesso, ci troverete link anche appunto a Bandcamp se volete acquistare il disco online e a anche precedente SoundCloud, entrambi i dischi, sì, e anche SoundCloud se volete ascoltarli in streaming. Il primo disco era Tiny Tiny Tiny, il secondo Don't Be Afraid and Trust Me. In attesa dei concerti possiamo comprare il disco intanto, che fa bene perché è un bel disco. Comprate i dischi originali, cari ragazzi, dobbiamo fare così, assolutamente. Sì, io posso spezzare una lancia in favore del... che per quanto mi riguarda a me interessa molto di più che la musica, parlo proprio per la mia musica, non posso parlare in generale, venga ascoltata il più possibile, quindi mi interessa relativamente se poi uno masterizza il CD all'amico o lo ascolta su Bandcamp. Però almeno la copia originale deve averla. Ma questo farebbe piacere più che altro per l'oggetto, perché insomma è un bell'oggetto, però se vuole limitarsi ad ascoltare la musica, l'importante, io son contento se la mia musica comunque va in giro anche se non è su supporto originale. Salutiamo anche il nostro tastierista che è a casa. Salutiamo Guglielmo, grande Guglielmo, ciao, ci vediamo alle prossime prove. E la prossima volta verrete in quattro. La prossima volta verremo in quattro. Con qualche cosa di nuovo, anche quella qualcosa di vecchio non importa, ma verrete in quattro. Dobbiamo prepararli, Maurizio, perché il tempo stringe. Esattamente, sono 23:58. Assolutamente, allora. Qui a mezzanotte in punto basta. No, mezzanotte e qualche minuto, okay. In ogni caso salutiamo, grazie alle Staggerman, questa loro cavalcata elettrica e non solo elettrica. Cosa ci presentate per finire? Ora vi proporremo The Night at Soyuz Tripping, insomma una sorta di un blusaccione un po' così. Bello. Cattivo. Grazie a Gil. Quindi grazie Matteo, grazie Lorenzo e grazie Salvatore. Prego. E grazie anche a te, ovviamente, grazie a Maurizio. Grazie a te, Gil, per la regia. Valentissima, è la prima volta, ma ce ne saranno molte altre. Certo, spero di esserti stato utile. Assolutamente sì. Domani sera abbiamo Agostino con Michele Savino, che è un cantautore ligure, che viene a proporre il piacere di conoscervi, che è il, loro, che è il disco di esordio di questo cantautore di Genova. Pronti, ragazzi? Buonanotte, grazie. Buonanotte, e vai, ragazzi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Nothing else before.